La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, le 16:07 primi e 49 secondi in diretta da Milano. Vi saluto e vi ringrazio Oscar Giannino per l'ascolto in diretta o in podcast. Vi dice subito di che cosa parliamo oggi. Se eravate in ascolto il giornale radio lo avete già sentito, un approfondimento sui diversi temi che investe questa vicenda che è esplosa in tutti i paesi serviti da Ryanair e quindi anche in Italia. Una vicenda in larga misura, in queste proporzioni, senza precedenti. Immagino che molti di voi la conoscano, adesso la riepilogo. E ovviamente, oltre alle migliaia di passeggeri che sono interessati, perché che cosa è successo? È successo che Ryanair, che è la prima compagnia aerea in Europa con 116, quasi 117 milioni di passeggeri nel 2016, è precipitata nel caos, perché nelle prossime 6 settimane cancella il 2% circa del suo operativo, cioè dei suoi 2500 circa collegamenti quotidiani, una media di 50 voli al giorno, e sono oltre 2000 il totale. Stiamo ancora aspettando la lista completa, però ci sono le liste dei primi 700. Si calcola che il volume di passeggeri in tutti i mercati serviti che vengono colpiti da questa carenza di offerta rispetto all'operativo sia intorno a 400.000 passeggeri, di cui alla fine ottobre forse un pochino di più. Quindi le cancellazioni di massa pongono diversi problemi. Il primo è naturalmente un rispetto di tutti i diritti stabiliti a livello europeo dei passeggeri di fronte alla cancellazione, e quindi la riprotezione, la tutela, il rimborso. Faremo una riflessione su questo sentiremo anche voi. Se volete chiamateci 800 24 00 24, 349 238 6666. Il secondo aspetto è capire che cosa è successo, perché i giornali di oggi, diciamo, presentano questa fuga di piloti in massa da Ryanair con numeri molto ampi, in una forbice molto ampia. C'è chi dà per scontato 100 piloti presi dalla Norwegian, non si capisce quanti altri presi da Lufthansa e IAJ, che ieri sono stati accusati in effetti da Ryanair di essere coloro che se ne sono presi di più sul totale dei circa 4100 piloti di Ryanair. E questo secondo problema, oltre che sulla chiarire come può essere avvenuto un esodo di massa di queste proporzioni, che la compagnia cerca di mascherare anche con "ah no, ma c'è un massiccio piano ferie in corso", però al di là di questo, questo secondo problema investe la questione, che viene diversamente trattata oggi da molti giornali italiani, della tutela dei diritti, dei contratti di chi lavora in Ryanair. Ed è un annoso problema, perché in Italia continua a essere considerato del tutto anomalo che quei contratti, molti dei quali inizialmente sono a tempo accesi in Irlanda, quindi secondo le caratteristiche del diritto irlandese, tutelati secondo quel diritto, disciplinati da quel diritto e con i contributi pagati quindi in Irlanda, rappresentino però una vera forma di dumping. Questo è da sempre uno degli argomenti dei sindacati che non sono in Ryanair, ma dicono a quelle condizioni non è lavoro. E questo secondo problema è quello della concorrenza tra ordinamenti europei. Come sempre, i paesi a bassa tassazione e contribuzione attirano la riprovazione degli altri, che dicono "ci fate concorrenza impropria", quelli abituati a spendere molto di più e a incassare le tasse e contributi, cifre molto più elevate. Io vi ricordo che in questo ci sono anche precedenti della legislazione italiana. In passato c'è stato chi ha tentato di adire il giudice in Italia, era un sindacato autonomo, chiedendo che i contributi venissero versati in Italia e non in Irlanda dei dipendenti italiani di Ryanair, e il giudice di Bergamo nel 2016 ha detto "picche, ha detto assolutamente no. Il personale Ryanair opera su aeromobili registrati in Irlanda ed è correttamente assunto, sto leggendo dalla sentenza, è assicurato socialmente in Irlanda secondo la legge europea, e quindi non c'è assolutamente niente da eccepire da questo punto di vista. Niente da eccepire significa che i contributi previdenziali, appunto, vanno lì, non vanno all'INPS italiano. E c'è anche un'appendice che però riguarda questa problematica, cioè le norme sul lavoro e le tutele di chi lavora in Ryanair, perché è recentissima una sentenza della Corte Europea di Giustizia. La Corte Europea di Giustizia è intervenuta con una sentenza che potrebbe aprire una breccia, per così dire, perché il caso era di dipendente Ryanair del Belgio che chiedevano di poter dire il proprio diritto nazionale, quello belga, per controversie di lavoro rispetto ai contratti appunto registrati in Irlanda, e la Corte Europea di Giustizia ha dato loro ragione. Quindi questo apre una breccia, per così dire, rispetto alla prassi, la norma ribadita anche da precedente sentenza nazionale sul fatto che la competenza era quella irlandese. Vedremo che sviluppi avrà. Poi c'è un terzo problema ancora più ampio, perché Ryanair è tra le compagnie che hanno dichiarato il proprio interesse, che entro il 2 ottobre devono fare un successivo passo nella procedura di gara per allocare all'Italia, che è in amministrazione controllata straordinaria. E i giornali italiani su questo ci mettono un biscotto, perché naturalmente molti giornali fanno: ah, questa sarebbe la compagnia che vuole gli aerei dell'Alitalia, perché ricordo che Ryanair aveva fatto sapere, non era ancora un'offerta formalizzata che arriverà nelle fasi successive della gara a cominciare dalla scadenza del 2 ottobre, che oramai è prossima, ma Ryanair aveva detto di essere interessata a rilevare 90 aerei e per il resto di avere una terapia intensiva per ridurre i costi del personale. E naturalmente molti giornali italiani dicono: vabbè, certo, se la terapia è quella che state adottando lì e che vi porta a bloccare i voli per 6 settimane, non ne abbiamo bisogno, grazie. E anche i sindacati si sentono sui giornali su questo. La mia opinione è: non abbiamo grandi lezioni da dare noi, visto che l'Italia è plurifallita sia sotto la gestione pubblica sia sotto quella dei privati, malgrado massicci aiuti di Stato. Però resta il fatto che c'è anche questo terzo aspetto. Allora, mettiamoli lì e iniziamo con i nostri ospiti a fare rispondere a loro. Allora, in questa prima parte della trasmissione abbiamo con noi Andrea Giuricin, lo conoscete, che oltre a essere dal punto di vista universitario docente di economia dei trasporti presso la Bicocca di Milano e a tenere lezioni, cicli di lezioni anche in molte università internazionali, è anche un fellow dell'Istituto Bruno Leoni. Grazie di essere con noi, Andrea Giuricin. Grazie a te, Oscar. E abbiamo anche il segretario nazionale della FILT, che è la Federazione Trasporti, della CGIL, Nino Cortorillo. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buongiorno a lei e a chi ci ascolta. Inizio con Giuricin semplicemente per capire: è credibile che questo blocco, che ha un impatto rilevante, al di là dei mancati utili per la compagnia, si parla di danni per il ristoro dei viaggiatori che possono arrivare a 30 milioni di euro se non oltre, è possibile che questo dipenda da un'improvvisa fuga di centinaia di piloti? Beh, secondo me è più che altro un problema operativo di errori operativi, nel senso, non, in parte sarà anche vera la fuga di piloti, certamente cercano delle condizioni contrattuali migliori, questa è la logica del mercato. Ma dall'altro punto di vista, a mio parere, è il fatto che Ryanair si è ritrovata con una compagnia sempre più in crescita. Ricordo, nel mese di agosto ha fatto quasi 13 milioni di passeggeri, cioè circa molto di più della metà di tutto l'anno di Alitalia come numero di passeggeri, e quindi si è ritrovata con una grande crescita e con indici di puntualità molto bassi, cioè sotto l'80%, e questo gli avrebbe provocato dei gravi problemi di ritardo, e questi problemi di ritardo poi sarebbero ripercossi proprio sull'operatività stessa dell'azienda. Quindi è un problema operativo, in parte può essere dovuto anche ai piloti, ma a mio parere è proprio un errore di programmazione dell'azienda nel corso di questi mesi, e che è stato pagato caro. Perché pochi velivoli rispetto allo sviluppo della domanda o poco personale? Probabilmente i velivoli li sta acquisendo, quindi ce li ha in flotte e non dovrebbe avere troppi problemi di velivoli, perché comunque ha delle opzioni anche con Boeing, quindi li possono arrivare prima o dopo dei determinati aerei. Dal punto di vista di personale, evidentemente hanno organizzato male tutto quello che è la turnazione. È chiaro che un'azienda enorme come Ryanair, con 120 milioni di passeggeri, non è facile da gestire, e questo errore comunque verrà pagato caro, anche solo da un punto di vista di immagine, non solo da un punto di vista dei 30 milioni di indennizzo che dovrà dare la compagnia. Ci dice la sua opinione sui contratti in termini comparati? Ovviamente non le chiedo una comparazione con le compagnie full service, che hanno ovviamente altri costi medi del personale, sia quello di volo, piloti e non piloti, sia ovviamente degli amministrativi che degli addetti ad altre mansioni a terra. Ma all'interno del modello low cost, Ryanair che particolarità ha rispetto alle altre compagnie? Ryanair è la compagnia, quella che in gergo è sempre stata chiamata la cost killer, perché? Perché ha sempre ridotto tutti i costi, quindi Ryanair è brava a ridurre tutti i costi. Sicuramente sul personale ha dei contratti peggiori per quanto riguarda, ad esempio, nel confronto con, potrebbe essere con l'altra grande low cost, EasyJet, ma questo chiaramente con l'esternalizzazione molte volte anche dei contratti dei piloti, cosa normalissima, è sempre stata fatta nel settore, ma questo provoca un problema per Ryanair, perché se da un punto di vista gli aumenta la flessibilità e gli diminuisce i costi, diminuisce anche al tempo stesso la fedeltà dei propri lavoratori, quindi va incontro a un problema proprio di fidelizzazione dei propri lavoratori. È chiaro che se tu ce li hai all'interno e li paghi di più, è facile tenerteli; nel momento in cui invece sono esternalizzati e trovano un'offerta migliore, vanno al miglior offerente, come è logico che sia in una logica di mercato. Senta, ieri il ministro Del Rio ha usato parole dure, ma che sono analoghe, a dire il vero, da parte di esponenti di molti governi europei. In quasi ogni grande paese europeo le associazioni dei consumatori e dei sindacati hanno richiesto misure aggiuntive, addirittura norme aggiuntive per la tutela dei passeggeri, eccetera eccetera. Oggi Graziano Del Rio, il ministro, è intervenuto su un altro aspetto, perché ha visto che molti giornali dicevano: ah, ma questo mette in forse l'offerta di Ryanair per l'Italia, e ha chiarito: Ryanair resta una compagnia in fior di utile, e quindi ovviamente non è leso il suo diritto di avanzare offerte per il 2 ottobre per il proseguo della gara di Alitalia. Ma il suo giudizio, Giuricin, è che il danno ci sarà o no? C'è sicuramente stato un danno di immagine molto forte. Io continuo a avere tanti dubbi che Ryanair cambi il proprio modello di business, che l'ha portata ad avere 1,3 miliardi di utile l'anno scorso su 6,5 miliardi di fatturato, per andarsi a prendere un'Alitalia, andarsi a prendere un pezzo di Alitalia. È chiaro anche che la partita Alitalia rimane una partita politica, perché è commissariata dal governo, e quindi sarà il governo anche a dire la sua. Non è mai stata troppo simpatica Ryanair in generale a molti governanti, come giustamente ricordavi tu. Io vedo la partita Alitalia Ryanair molto difficile, poi magari mi sbaglio, ma la vedo proprio difficile da un punto di vista operativo, di modello di business, e anche da un punto di vista politico. Però neanche Lufthansa è interessata dall'Italia così com'è, visto che il governo ha sempre ribadito negli ultimi mesi che la sua prima opzione è quella di cederla così com'è, cioè senza spezzatino, senza dall'handling a tutto il resto e con tutti i dipendenti. Beh, innanzitutto devo dire che il governo finalmente, anche i commissari, sono andati forse nella giusta direzione, che dire: vabbè, non chiamiamolo spezzatino, però facciamo la parte handling e la parte aviation, cioè la parte di terra e quella di aviazione. E già questo di fatto è uno spezzatino, cioè non sono più un'azienda, ma diventano due parti di azienda. Detto anche questo, molto probabilmente la parte aviation non verrà acquistata o acquisita nel suo complesso, ma verranno acquisite alcune parti o gran parte della parte di Alitalia di oggi. Però io vedo molto difficile che si possa chiudere una partita con l'acquisto di tutti gli aerei e di tutta l'azienda così com'è. È difficile, è un'azienda che perde soldi nonostante l'azione dei commissari. L'azienda rimane molto debole sul mercato, ha bisogno di grandi investimenti, quindi un'azienda molto grande richiede ancora più investimenti. Vice Ministro Nencini oggi ha detto che Il governo è disponibile anche a un'altra rata del prestito ponte, mentre i commissari quest'estate dicevano non ce n'è bisogno, abbiamo ancora il prestito ponte sostanzialmente intatto dal punto di vista finanziario. Secondo i conti che si fa lei, ci sarà bisogno di una ulteriore rata? Io dico dall'inizio che il problema è quando il 2 novembre scadrà, mi ricordo male, il prestito ponte, inizia il periodo più difficile dell'anno e quindi probabilmente dovrà essere perlomeno rinnovato. Non so se verrà rinnovato nella stessa cifra o verrà rinnovato con più soldi, però comunque dovrà essere rinnovato, perché probabilmente durante l'estate è vero, l'Italia non ha perso soldi come quasi tutte le compagnie aeree, però poi arriva il periodo difficile che da novembre poi, novembre, dicembre, gennaio, febbraio sono mesi dove la compagnia può perdere anche 40-50 milioni di euro nonostante la ristrutturazione, e quindi voglio vedere come fa andare avanti senza l'aiuto del governo, se durante l'estate non ha fatto il boom con grandi utili, ma questo non sembrerebbe, perché sennò sarebbe. E del resto abbiamo sempre detto che gli offerenti è esattamente questo il conto che si fanno, cioè per aspettare il momento più giusto per poi avanzare le loro offerte. È inutile così, quando c'è uno che ha l'acqua oltre la gola, aspetti che gli arrivi fino alle narici. Allora, Cortorillo, con lei cominciamo invece sull'aspetto contratti-lavoro. Io ho ricordato le sentenze italiane contro chi in passato era un sindacato autonomo, diceva facciamogli pagare i contributi qua, incardiniamo la competenza sui contratti di lavoro qua, e le sentenze dicono no, è coerente la normativa europea, i loro contratti irlandesi e si paga in Irlanda. Adesso ha sentito che ho ricordato anche questa sentenza della Corte europea rispetto alle controversie di lavoro, non alla parte assicurativa e previdenziale dei contratti. Voi come la pensate rispetto ai lavoratori italiani di Ryanair, Cortorillo? Ma innanzitutto i lavoratori italiani di Ryanair sono dei clandestini, perché non hanno possibilità di esprimere la propria opinione, non hanno la possibilità di organizzarsi come, non vorrei rivalermi sulla Costituzione, ma come qualunque legge di qualunque paese d'Europa dovrebbe prevedere, tant'è che il rapporto di lavoro tra Ryanair e, diciamo, i suoi non dipendenti, molto spesso assunti da società interinali collocate in altri paesi, compreso Malta, dove ci sono i regimi fiscali migliori, addirittura costringendole ad aprire partite IVA, prevedono di fatto che un'eventuale, come dire, adesione al sindacato porti alla risoluzione del rapporto di lavoro. Infatti la compagnia dice sempre: chi vuole venire a lavorare qua lo sa dall'inizio, altrimenti non ci viene. Ma noi dovremmo, noi, voi, tutti quanti dovremmo immaginare che una compagnia aerea come qualunque altra impresa è sottoposta, dovrebbe sottostare alle leggi di quel paese. Diciamo che le sentenze della magistratura, a secondo di come sono state poi poste le questioni, sono diverse da paese a paese. Sì, sì. È molto importante l'ultima, perché non riconosce una sorta di extragiudizialità ai dipendenti che sono assegnati a una base. Nessuno di noi immaginerebbe certo. I piloti di Lufthansa siano sottoposti a... Stiamo parlando, come correttamente dice, di coloro tra gli italiani che sono assegnati alle basi italiane. Alla base italiana. Sì. E ripeto, i dipendenti di Ryanair, questo è un tema che dovrebbe essere molto molto delicato per chiunque, non parlano con nessuno. Sì. Noi abbiamo la tutti i giornali italiani oggi, come l'ennesima volta in cui si parla di Ryanair, riportano questo. Infatti. Ovviamente, perché sono impegnati contrattualmente alla riservatezza totale. Ma qui siamo, a mio parere, siamo anche oltre, qui siamo anche, diciamo, alla lesione anche della possibilità di ogni singola persona di esprimere le proprie opinioni. Non stiamo parlando di opinioni nocive dell'interesse aziendale, qui stiamo parlando di semplici opinioni. Quindi questo è il primo punto. Quindi quella sentenza noi la valutiamo positivamente. Noi tra l'altro abbiamo avanzato anche richieste di incontri a Ryanair, mai, a cui non è mai arrivata alcuna risposta, e andiamo avanti su quel tema. Se posso, in attesa di altre domande, agganciarmi sul tema delle ferie. Anzitutto io poi condivido quasi tutto, mi capita anche spesso le opinioni del professor Giuricin. Anzitutto una prima cosa, il danno d'immagine. Io penso che sia la prima volta che Ryanair si presenta nei confronti dei propri clienti sbagliando in modo clamoroso qualcosa. È la prima volta nella sua nella sua vita industriale. Sì, cioè, sì. Tutte le altre volte, se lei ricorda, trasformava anche i fatti esterni in scoop pubblicitari. Verissimo. Anzi, agendo sulle disavventure, sulle disgrazie degli altri concorrenti. Ecco, Torillo, è per questo che colpisce nel senso che vuol dire che la gravità del fenomeno che ha determinato una così rilevante frattura operativa per una compagnia di questa importanza è veramente un errore manageriale profondissimo. No, posso agganciarmi? Certo. Perché ovviamente io non avendo in mano i non contratti che regolano, come dire, l'attività, no, i contratti. Noi dobbiamo agire più che in presenza di prove, in presenza di indizi. E quindi mi aggancio esattamente alla cosa a cui lei accennava. Io non ritengo, lo dico proprio in modo molto chiaro, che il problema di Ryanair, che ha portato alla messa a terra della quantità di voli, quindi questo impatto, sì, che non è solo un impatto d'immagine, è uno stravolgimento di quello che è avvenuto in questi 20 anni, sia dovuto di punto in bianco al fatto che Ryanair si accorga che i propri dipendenti debbono utilizzare le ferie. In effetti non risulta credibile. Cosa, no, ma è lo ritengo una cosa assolutamente è ragionevole il suo tant'è che la mia organizzazione, la FIL-CGIL, si appresta su questo argomento a chiedere un intervento che non sia, come dire, una semplice opinione da parte degli enti di controllo, almeno quelli italiani. Le do la mia opinione, ovviamente assolutamente indiziaria e ovviamente non suffragata da alcuna prova. Io penso che il tema delle ferie sia servito a scegliere, come dire, il male minore rispetto alla cancellazione dei voli. Cioè presentare la cancellazione dei voli originata dal fatto che questi dipendenti di colpo a metà settembre Ryanair, non è un errore operativo di programmazione, attenzione, non cadiamo nell'errore, si accorgano che debbono utilizzare le ferie, ma chi? Lavoratori che stanno in una sede interinale a partita IVA? Ma quando mai? Probabilmente qui siamo in presenza di qualcos'altro che solo gli enti di controllo possono accertare. Io presumo che abbia a che fare più con i limiti di impiego del personale che non le ferie. Come dire, Ryanair probabilmente, dovendo cancellare dei voli perché non poteva più far lavorare i piloti, ha preferito, sapendo di scontare un impatto con l'opinione pubblica, ha preferito argomentarlo con il tema ferie. Ma Ryanair non ha nessun obbligo sulle ferie, è noto a tutti, perché non ha un contratto di lavoro. Guardi, le aggiungo questa cosa: ma è possibile che di tutte le compagnie aeree in Europa, moltissime delle quali sono low cost, un'estate che è andata benissimo per le compagnie aeree, l'unica compagnia che si è accorta che ha un problema di ferie, no, tanto questo, da dover arrivare a tutelare i propri dipendenti, guardi, che sarebbe, è un assurdo, su questo Ryanair. Le do ragione, ma mi sembra parlando una cosa come giornalista che segue il settore da tanti anni, io dedico tante trasmissioni, come sa chi mi segue, al trasporto aereo, anche qui in Italia purtroppo è una piaga, ma detto questo, io sono d'accordo con lei, cioè dal punto di vista della pura ragionevolezza non sta in piedi né l'assunzione improvvisa in un solo colpo o in 3 settimane da parte di tutti i concorrenti di centinaia e centinaia di piloti in un solo colpo, né il fatto che questo poi arrivi in concomitanza di un'improvvisa emergenza per cui centinaia e centinaia e centinaia di dipendenti abbiano le ferie da smaltire. Queste due ragioni insieme non possono giustificare ragionevolmente, naturalmente lei non lo sa, io non lo so, è anche legittimo, io perché faccio giornalista, lei perché fa il sindacato, ma per chiunque è in ascolto ed è un passeggero, visti i passeggeri che serve in Italia, Ryanair, in Europa, porsi il problema del perché. Perché il perché dovrebbe diventare chiaro, essendo un servizio di quelli essenziali di trasporto con licenze garantite da autorità, eccetera, eccetera, non è che improvvisamente in 6 settimane possono venir meno 700 voli e non si capisca il perché, come ragione ufficiale, perché a questo punto la trasparenza è dovuta, è un obbligo verso il mercato, verso i concorrenti, verso i clienti, verso le autorità. Sono d'accordo con lei su questo, infatti l'approfondimento, come sente dal tempo che sto dedicando, è proprio su questo, perché secondo me c'è un interesse nazionale, europeo, collettivo a farsi dare delle spiegazioni che siano precise e siano credibili, ecco, perché quelle che abbiamo oggi e che tutti abbiamo scritto o letto sui giornali, ragionevolmente, Io la penso come lei, a me non appaiono credibili. Adesso vedremo le autorità italiane e europee che cosa faranno e a quel punto continueremo. Le chiedo un'ultima cosa al volo. Secondo lei questa cosa inficia l'offerta Ryanair su Alitalia? Sappiamo che non è molto, non è in cima ai vostri desideri, però... Vediamo. Ah, ecco, speriamo, appunto, lei mi risponde sinceramente e no, mi dice certo che le rispondo sinceramente, perché portare questo modello di cui stiamo parlando in Italia nella gestione di 6, 7, 8, 9 mila persone penso che sia da evitare. Questo ovviamente è la così come è impensabile continuare a pensare di avere costi da full service avendo una fetta del mercato calante, perché il problema è che i conti di Alitalia non ci dimentichiamo, mi ha già ospitato, esatto, quindi, lo so. No, ma lo ricordo solo perché è a casa. Non difendo la storia di Alitalia, Alitalia deve essere venduta, spero che venga venduta ad altri. Se posso solo aggiungere una cosa, l'unica differenza potrà sembrare anche paradossale che lo dica un sindacalista, io non penso che la vendita di Alitalia tra Aviation e Handling si prefiguri uno spezzatino. Lo spezzatino vero sarebbe il fatto che non vi sono soggetti disponibili all'acquisto, o vi sono soggetti, come è stato anche detto precedentemente, disponibili all'acquisto di una sola delle due parti. Lì sì avremo dei seri problemi. Ecco, e noi temiamo, per quello che più o meno sentiamo da alcuni degli offerenti, che esattamente questa ipotesi potrebbe configurarsi. Naturalmente poi spetterà ai commissari e al governo valutarla. Intanto grazie anche a Nino Cortorillo. Noi torniamo tra un po' di minuti perché c'è la borsa e la pubblicità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta a 16:39 primi e 45 secondi. Nel frattempo alle Nazioni Unite in questi giorni sono gli interventi dei leader del mondo, l'intervento del presidente americano Trump, un intervento diciamo non troppo conciliante, mi limito a dire, in linea con le sue posizioni di America First. Ha iniziato con un esordio fierissimo sugli Stati Uniti, che fanno benissimo da quando lui è eletto, eccetera eccetera. Ha riservato parole sprezzanti alla Corea del Nord, dicendo gli Stati Canaglia sono una minaccia per il mondo. Se ci attaccheranno, parole testuali, non avremo altra scelta che distruggere la Corea del Nord. Il regime di Kim Jong-un, il Rocketman, ha detto lui, è in missione suicida. È un oltraggio che ci siano paesi che sostengono Pyongyang. E qui in qualche misura implicitamente si rifaceva ovviamente alla Cina. La Corea del Nord deve realizzare che la denuclearizzazione è l'unico futuro. Parole dure anche con l'Iran, però. Il patto con l'Iran firmato sotto Obama mi pare a rischio. Leggo testualmente: è imbarazzante per gli Stati Uniti far parte dell'accordo con l'Iran. Oltre al potere militare enorme degli Stati Uniti, sono spaventati a Teheran da noi, ma noi facciamo paura al regime iraniano. Per questo non hanno internet, per questo non consentono le proteste studentesche, ma noi non possiamo accettare i regimi, gli ostaggi, chi non vuole stare lì deve essere rilasciato. Ecco, nello stile dell'oratoria non proprio lineare nel paratassi e nell'ipotassi, ma insomma, come vedete, parole durissime anche nei confronti di un paese con il quale in teoria fino a questo momento gli Stati Uniti avevano firmato un accordo che era per garantire lo stop e il controllo sulla via nucleare dell'Iran. Bisogna vedere adesso come reagisce il regime di Teheran. Torniamo alla questione Ryanair, sullo sfondo anche l'offerta per Alitalia. Avete capito la prima parte che da due punti di vista diversi, con Andrea Giuricin e con il segretario della FIT CGIL, in effetti non siamo riusciti a capire bene come il fenomeno della fuga dei piloti e il fenomeno delle cosiddette ferie in massa possa giustificare un crack all'operativo di una compagnia di questo rilievo, tale da dover assumere una decisione così senza precedenti di far venire meno in 6 settimane il 2-3% dei collegamenti. Allora, è la stessa domanda da cui ripartiamo con Ugo Arrigo, spesso ospite nostro nelle trasmissioni sul trasporto e non solo aereo. Ugo Arrigo insegna finanza pubblica all'Università Bicocca di Milano. Buon pomeriggio, professor Arrigo. Secondo lei, che cos'è che può aver determinato una rottura dell'operativo di queste dimensioni? intanto come evento assolutamente sconcertante. Io vorrei ricordare che non è mai successo dall'Italia. La nostra compagnia, con tutti i problemi che ha avuto nel corso del tempo, non si è mai ritrovata a dover cancellare un numero consistente di voli tutti assieme, no? Quindi il primo obiettivo di una compagnia aerea è quello di far volare negli orari giusti i voli, di non sopprimerli, eccetera. Quindi è una grossa caduta di qualità, di immagine, di capacità imprenditoriale da parte di Ryanair. Ipotesi, sicuramente quella delle ferie ridicole, insomma, non ci crede nessuno. L'ipotesi più probabile, ovviamente, è quella di una fuga non prevista dei piloti verso altre compagnie. Io ho una mia spiegazione. Sì. Secondo me la spiegazione è il boom europeo del trasporto aereo in questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno. Noi abbiamo tutti i paesi, quelli di cui ho controllato le statistiche, hanno tasso di incremento nei mesi più recenti, ma anche nella parte trascorsa del 2017, che vanno tra il 7 e il 10%, e quindi Italia compresa. E quindi vuol dire che tutte le compagnie si sono ritrovate a dover affrontare una domanda crescente, e probabilmente alcune si sono attrezzate meglio di Ryanair e probabilmente le hanno sottratto dei piloti, offrendo condizioni più remunerative. E classicamente, quando aumenta la domanda di lavoro da parte delle imprese, c'è tensione sui livelli salariali, e quindi l'imprenditore che non si adegua vedrà i suoi dipendenti che scappano alla ricerca di condizioni migliori. Però questo getta una luce completamente diversa sul mercato europeo. Esattamente, e getta, per così dire, un pesante interrogativo. Io sono un difensore del modello low cost oltre al full service, perché senza low cost noi non avremmo avuto lo sviluppo incredibile di milioni e milioni di passeggeri aggiuntivi nel mercato europeo anche negli anni di crisi. Questa è la verità. Ma la domanda diventa, professor Ugo Arrigo, per chi è esperto di come si fanno i bilanci, e cioè margini positivi e magari anche molto elevati in presenza di condizioni di stress sia dei propri velivoli che del personale di volo e a terra, perché questo significa essere capaci di arbitraggiare ogni centesimo per portare utile avendo il carico integralmente coperto nei propri velivoli. Ma la domanda diventa: non è che per caso oltre una certa soglia di passeggeri e di crescita il modello di gestione, il più stretto di tutti come low cost, cioè quello di Ryanair, come ce lo ricordava Andrea Giuricini, diventa quasi incompatibile con ritmi di crescita di questo tipo? Non solo diventa meno compatibile, ma rischia anche di diventare meno attuale. Cioè, il modello low cost è servito, e anche quello spinto di O'Leary, è servito a portare a far salire in aereo persone che non sarebbero mai salite, per ragioni di costo, di ovviamente di onerosità. E però una volta che viaggiano in aereo, una volta che anche le compagnie tradizionali hanno abbassato i prezzi, perché ricordiamo che anche all'Italia, tranne prenotazioni fatte con pochi giorni d'anticipo, applica sostanzialmente prezzi simili ai vettori low cost, se non quelli più spinti. A questo punto però il consumatore si è abituato a prezzi più bassi e cercherà forse una qualità un pochino più elevata. Quindi se la compagnia tradizionale, che si è adeguata alla pressione dei vettori low cost, ha abbassato i prezzi ma ha mantenuto standard qualitativi abbastanza vicine a quelle che aveva un tempo, forse diventa più attraente, più attrattiva per il consumatore. Ecco, quindi il problema è, siccome stiamo già parlando di 117 milioni di passeggeri l'anno scorso e quest'anno dovevano essere molti di più, diventa un problema, perché bisogna inventare una transizione dal modello low strettissimo verso un medium, per così dire, e questo non sembrerebbe proprio molto rientrare nelle corde, per come lo conosciamo negli anni, di O'Leary e dei suoi manager di Ryanair. Un minuto di informazione sulle strade e torniamo. La versione di Oscar. Eccoci tornati, 16:47 e 56 secondi. Professor Arrigo, dal suo punto di vista, questa vicenda che è in corso, come impatta? Quanto danneggia la possibilità che l'offerta che Ryanair farà insieme ad altri entro il 2 ottobre in questa tappa successiva della lunga procedura di gara per l'Alitalia commissariata in termini straordinari, quanto è immaginabile che danneggi la sua offerta? Ma io intanto non credo molto nell'offerta di Ryanair, proprio perché penso che O'Leary sia ancorato al suo modello e che ha avuto così successo in questi anni e quindi sia poco disponibile a rivoluzionare se stesso un'altra volta, e quindi più probabile che arriverà qualcun altro che effettuerà questo cambiamento, potrebbe essere Norwegian piuttosto che qualcuno nuovo. Quindi io non penso che ci sarà un'offerta seria particolarmente attraente per l'Italia da parte di Ryanair, e la mia, l'opinione che mi sono fatta è che non si venderà assolutamente nulla, che i commissari verranno prorogati, il prestito verrà prorogato e il dossier rimarrà come eredità, non so se piacevole o meno per il governo italiano. Ecco, devo dire la verità, questo io lo temo fin dal primo momento, perché le elezioni, a me pare solo che nessuno voglia scegliere prima delle elezioni, perché ci sarebbero comunque prezzi da pagare rispetto alle offerte che arrivano, per essere chiari. Prezzi consistenti, prezzi onerosi, esatto. Perché comunque l'alternativa è che tipo di spezzatino hanno messo. Esattamente, eravamo esattamente arrivati lì a parlarne con il capo della FIL-CGIL e con Giuricin, perché l'illusione che qualcuno sarà pagato così com'è tutto è una pura illusione, non è mai esistita questa ipotesi qua, quindi purtroppo significherà aspettare, e quindi altri soldi del contribuente, vero o no? Ma diciamo che i 600 milioni di prestito che non sarebbero stati utilizzati, secondo me sono più che sufficienti per scavalcare il rigido inverno, inteso come domanda delle compagnie. In cui la compagnia, no? Però perde tradizionalmente. Sì, sì, esatto, però voglio dire, al massimo delle perdite dell'Alitalia recente è arrivata a 500 milioni su base annua, quindi se in estate non ha perso i 600 milioni per andare da novembre a marzo, bastano. E quindi a quel punto poi arriva la stagione in cui non si dovrebbe più perdere. E immagino che i commissari non siano attenti ai costi, insomma. E quindi secondo me dell'Italia della vendita se ne riparla esattamente. Se ne parla dopo le elezioni, il proporzionale, sa Dio che cosa. Sentiamo Marco che ci chiama dalla provincia di Mantova. Marco, prego. Sì, ciao Oscar. Eccoci, buongiorno. Mi sembra normale che i piloti scappino da Ryanair e gli steward scappino da Ryanair. Avete mai sentito cosa guadagna un pilota o uno steward di Ryanair? Sì, sì, abbiamo descritto anche che stanno in società di somministrazione con contratti a tempo e partita IVA. Sono anche obbligati a rifilarci ogni genere di cazzata, dai biglietti alla lotteria ai profumi, perché lì guadagnano il 10%. Hanno stipendi che vanno dagli 800 ai 1000 euro al mese, senza contributi, senza cazzate, delle cose. No, i contributi sono quelli della legge irlandese, l'abbiamo ricordato. Sì, vabbè, ma ecco, un'altra cosa. Attacchiamo anche questo discorso della legge irlandese. Ma perché? Cioè, no, secondo me non bisognerebbe far lavorare certe compagnie a certi livelli. Ma perché? Perché sono troppo basse queste oh, cose. Santo Dio. Ma l'Irlanda è un paese europeo, non stiamo mica parlando di chissà che cosa. Allora se lo sai. Lo so Oscar, però intanto fanno chiudere gli altri e poi alla fine abbiamo perso tutti i diritti di qualsiasi Ma esiste di però, genere. Allora, questo è lo stesso argomento, tale quale, che si faceva all'Irlanda quando esplosa le sue banche e la sua economia, sottoposto a un programma ovviamente di rientro coatto a fronte dei tutti europei, i grandi paesi europei gli dicono alza l'aliquota sulle imprese, visto che attiri tante imprese e attiri anche le nostre e ci sottrai gettito. Loro hanno fatto l'impossibile, hanno tagliato tutto il resto, ma quella non hanno tagliato. Cioè, la concorrenza tra ordinamenti che tra virgolette pretendono meno è una roba che nel nostro paese, dove i costi del contributivi e fiscali sono elevatissimi, noi dovremmo vedere come una cosa utile. Invece anche tu mi dici no, impediamola, bisogna pagare quanto noi. Ma sei così convinto? Noi Oscar, però devono avere qualcosa di più o meno simile. Non è che da noi si possa pagare il 70% di tasse e da loro il 5%, perché è ovvio che questi ci fanno il culo a strisce. Aspetta. E certo, perché sono ripartiti con una crescita clamorosa, mentre noi ci abbiamo sempre il culo per terra. Forse però, io non voglio arrivare a dire che sogno un mondo con i contratti in somministrazione di società maltesi. Dico però che l'Irlanda ha cresciuto tanto prima, ha preso una botta, ha iniziato a crescere tanto dopo, mentre noi no. Forse c'è qualcosa da noi di sbagliato, tant'è vero che all'Italia, sì, pubblica e privata è sempre andata a puttana, perché li pagavamo a prescindere dai risultati che faceva la compagnia. Lì mi dirai tu, ho capito, ma non possiamo andare a pagare solo per i profumi. E ti seguo. Però il problema è non dire... tutto sbagliato e abbiamo ragione noi. Oh, io la penso così, non ti voglio convincere però. No, no, certo, ci mancherebbe. Però noi non possiamo combattere con archi e frecce, loro hanno il bazooka, capito? Secondo me dovremmo lavorare per avere qualcosa di analogo al bazooka anche noi, ma però questo lo so che è molto complicato in Italia e quindi... Però come vedi oggi non ci siamo sottratti a descrivere tutti i problemi del modello Ryanair. Cioè la domanda è davvero, è un modello che entra in una tensione tale da rivelarci che è molto complicato che vada avanti così com'era? Ecco, questa è la domanda di questa vicenda, perché è una vicenda epocale per il trasporto aereo, davvero è così. E secondo me i giornali italiani, oltre a tutti i particolari, come è giusto sui passeggeri che devono essere tutelati, i contratti di lavoro, oggi non l'hanno capito tanto, che per il trasporto aereo, visto il successo accumulato in questi anni da quel modello che ha messo in ginocchio le full service meno efficienti, però mostra una crepa che rischia di essere strategica. Forse siamo in presenza di un cambio di modello. Lei che dice, professor Arrigo? Beh sì, secondo me intanto bisognerà capire cosa succederà a lungo raggio, perché è chiaro che qualche compagnia low cost sta entrando e lo fa. Norwegian, per esempio. E quindi queste vecchie separazioni, questi vecchi modelli rigidamente separati, low cost da un lato, compagnia tradizionale dall'altro, i vettori tradizionali fanno anche il lungo raggio, i low cost non lo fanno mai, queste cose qui sono destinate a cadere. È vero. E quindi avrà successo quella compagnia che riesce meglio a inventarsi un mix di controllo dei costi, ottimizzazione dell'offerta e anche però ottimizzazione sul lungo raggio, ovviamente, però lo avremmo potuto fare anche noi, quindi assolutamente anomalo che all'Italia sia andata così male. Esatto. Se si fosse voluto fare in maniera diciamo così programmata, non saremmo riusciti a combinare un disastro così forte. Credo di essere d'accordo con lei. Grazie a voi tutti, appuntamento domani 8:15 con me Luca Terese 24 mattina e alle 16 domani pomeriggio.